cresciuta insieme a te. Ora è qualcosa di più, molto importante. Se vuoi volare in alto insieme al cuore che si innamora. Poi uno sguardo e quel sorriso, carezza sul tuo viso, momenti insieme a lei. Ora più in alto si può andare col vento lassù. Ali d'amore torna al cuore che poi vola. Portato fino al sole, avere un po' della sua luce, capire che poi non farà male se poi va. Trovi un nome, diversa questa storia vissuta insieme a te. Ancora qualcosa di più, restare importante per noi, volare in alto sino al sole e poi l'amore. Di un sospiro da tempo abbandonato, ritornare qui. Qualcosa è cambiato però, un ritmo diverso. Se vuoi sentire dal battito un po' strano, ma puoi volare. Fino al sole per capire un po' se quella luce porta un nome e se farà poi male quando va.